possa arrivare da te, su te. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Non si può tagliare tutto quello che ho da dire. Claudio, caro Claudio Rocchi, buonasera, come stai? Buonasera a voi, buonasera a voi, sto benissimo. Saluti amiche e amici in ascolto. Pezzo sono meraviglioso che dimmi. Del bacino di Blu Radio Veneto. Ah, ok, no? Ok. Sono anni che lo mettiamo sempre in programmazione perché è un pezzo meraviglioso, fa parte del tuo passato, ma un passato che ancora risplende secondo me. Ma parliamo del presente, Claudio, questo progetto interessante, innovativo, Nulla è andato perso. Come è nata l'idea assieme a Gianni Maroccolo? Il mio incontro con Maroccolo l'estate scorsa nasce in occasione di alcuni seminari che abbiamo tenuti insieme davanti a platee di giovani colleghi musicisti che si interrogavano su come fare a dare visibilità ai loro progetti, su come fare a produrre dei progetti in modo professionale, ricco e importante. Noi stavamo studiando da tempo, io e Gianni, questa soluzione del crowdfunding e abbiamo deciso di fare l'esperienza anche così per possibilmente segnare una strada, dare un'indicazione di percorso a tanti ragazzi, e ce ne sono migliaia in giro per l'Italia, di bravissimi musicisti che non sanno veramente come orientare i loro talenti e come andare verso produzioni che siano magari un filino più accurate di quelle che si fanno in casa, nelle cantine di tutti. Ecco. Quindi l'idea è partita da là, ma come si svolge, come si sviluppa? Ma si sviluppa nel senso che una volta si faceva un disco e si sperava che qualcuno alla fine lo ascoltasse. Adesso si parte da qualcuno che decide di dare fiducia al progetto e lo prenota a scatola chiusa prima che esista. Esistono delle piattaforme in rete tipo musicraiser.com dove ci siamo appoggiati noi, dove tu vai, fai musicraiser.com e ti trovi in un home page dove ci sono le icone di tutti i progetti che sono in aperti. Il nostro in particolare è il primo perché sta andando molto bene, ha un buon successo, si chiama Nulla è andato perso. Tu clicchi nell'icona e si apre una pagina dove noi abbiamo spiegato tutto del nostro progetto, il perché, il per come e cosa stiamo facendo. Noi in particolare stiamo facendo un CD, un LP, un DVD e un libro. Il DVD contiene un cartone animato e una videoopera anche originali, quindi un progetto complesso, variamente declinato. E tutto ciò viene offerto come ricompensa a chi vuole fare una donazione. Non so, se fai una donazione da 20 euro in cambio avrai come ricompensa il CD, se lo fai da 25 il CD più il DVD, se lo fai da 30 avrai l'LP, se lo fai da 35 l'LP più il DVD, se lo fai da 40 avrai il libro, da 45 il libro più il DVD, se lo fai da 80 avrai tutto il pacchetto insieme, CD, LP, DVD e libro. Ecco, sulla base di queste, e poi ovviamente queste ricompense cosiddette si acquistano con PayPal, con bonifici, con carte di credito. Sulla base di queste donazioni, che ripeto sono preventive, si raccolgono dei fondi che poi mettono in grado gli artisti di produrre effettivamente il disco, l'LP, il DVD, il libro e tutto. Noi ovviamente siamo in uno stato avanzato di lavorazione, non aspettavamo di chiudere la campagna per cominciare a fare il disco. Difatti nella nostra pagina si possono trovare già degli estratti musicali da ascoltare, c'è anche un video di un pezzo dove tra l'altro insieme a me a Gianni Maroccola ha partecipato Franco Battiato, suonando tastiere, Moog, cantando una sua parte scritta da lui di testo anche. Insomma è un progetto che si avvale della collaborazione di molti amici musicisti, oltre a Battiato ci saranno Piero Pelù, Ferretti dei CSI, ci sarà Cristiano Godano dei Marlene Kunz, ci sarà Cristina Donà, insomma tanti amici musicisti che collaborano e per noi è un'esperienza straordinaria perché al di là del fatto che stia andando molto bene, mancano ancora 12 giorni alla fine della raccoglia che si sviluppa nell'arco di 60 giorni e poi andiamo a settembre del 2013 a portare questo lavoro musicale in scena con un allestimento di tipo operistico, proprio un'opera, metro strada fra un'opera rock e un'opera di fine Ottocento, quindi con scenografie, costumi, allestimenti, e tutto questo si chiama VDB23, VDB23, che è un acronimo che sta per Via dei Bardi, Via dei Bardi 23. Il progetto, cioè i pezzi li avete scritti quasi tutti, ancora? No, i pezzi li abbiamo già scritti, abbiamo materiali già registrati per 3 CD. Ah, però. Infatti quello che andrà in scena alla fine nell'opera a settembre sarà un'opera lunga che se messa su CD ne richiederà 13 CD. Questo è il primo che esce adesso ed esce con questo modo del crowdfunding. È una novità assoluta per l'Italia, Claudio? Abbastanza, abbastanza. Diciamo che negli Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Germania sono già anni che funziona questa dinamica. In Italia ci sono varie piattaforme già da alcuni anni, però se ne comincia a parlare soltanto adesso. E noi anche proprio per dare visibilità a questo metodo che può essere utilizzato da tanti giovani musicisti, abbiamo scelto di tentare di farlo così, questo CD, il primo della trilogia di VDB23. Ho capito. Scegliamo un pezzo, che pezzo vuoi scegliere, Claudio? Sì, farei sentire un pezzo che al momento è solo strumentale, anche se poi nel disco sarà cantato più avanti, è un breve estratto, si chiama appunto VDB23. Ok. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Ok Claudio, cosa ha portato Gianni Maroccolo nel sound di Claudio Rocchi? Beh, voglio dire, questo che il pezzo che abbiamo appena ascoltato, pur essendo un estratto breve di un pezzo molto più lungo, mi sembra che stia benissimo col vostro stacchetto di rock wave, un pezzo tirato, sì, pulsante, di groove, che sono classici e tipici che hanno fatto di Maroc, così gli amici chiamano Maroccolo, un bassista quasi cultuale, no? Dalla sua storia con le FIBA, i CSI, i PGR, i Marlene Kunz e tutto. Gianni ha questa potenza con il suo strumento veramente unica. Gran parte del tessuto ritmico e anche armonico del pezzo sentito è costruito sui bassi proprio, no? Ecco, e quindi ha portato tutta la sua enorme esperienza di musicista, di bassista e anche di produttore stimato nell'area di tutta la musica indipendente italiana. Poi mi è piaciuto fare sentire questo estratto così particolarmente caratterizzato sul sound di Gianni, per andare poi, magari se avremo tempo, a sentire un altro pezzo che dà misura un po' l'escursione del campo di questo progetto musicale, che invece è declinato su atmosfere completamente differenti, molto più chitarristiche, acustiche, elettriche. Mi riferisco al pezzo dove ha lavorato anche Franco Battiato con noi, che è un pezzo che parte da basi mie, le chitarre sono le mie, quindi se dall'altra parte consideriamo il basso di Gianni e da questa parte consideriamo il mio approccio chitarristico, si può avere un'idea di, quando ci mettiamo insieme in tutti gli altri pezzi, che cosa può venire fuori. Ecco, insomma, io mi dico molto soddisfatto di quello che stiamo facendo, perché veramente credo che si sia trovato un equilibrio che solo l'entusiasmo con cui viviamo l'esperienza può giustificare tutto. Certo. Allora, nulla è andato perso, vidi Beat 23, mi citi il pezzo in cui hai suonato con Battiato? Rinascere è il pezzo di cui sto parlando, dove c'è anche Franco Battiato. Benissimo, io ti ringrazio Claudio, aspettiamo quando il disco sarà completo, chiaramente l'intervista la faremo più ampia quando sarà il momento giusto, e grazie della grazie partecipazione. A voi. Mi permetto solo, prima di salutarvi e chiudere, di ricordare a tutti quanti fossero interessati il link per andarsi a vedere il progetto in rete, lo dico come si scrive, musicriser.com. Grazie a voi. Claudio, però prima di chiudere, sono Vannuccio, ogni tanto noi ci sentiamo, sì, anche noi. E c'è una persona però che voleva salutarti, esatto, perché ha suonato con te qualche tempo fa. Con piacere. Questo è il microfono giusto. Sì, ciao Claudio, fai mente locale, tu ricordi un certo gruppo di nome Jumbo? Come no? Hai voglia? Fantastico. Indimenticabile, come si fa a dimenticarsi? Auguroni per questo nuovo progetto. Ma chi sei tu, scusa? Chi Daniele, sei tu? Il chitarrista. Ah, fantastico, che meraviglia, sarà qualche decennio che non ci si incrocia. Sì, no, ci siamo incrociati per il lavoro via web di un artista di Firenze che poi ha pubblicato anche il disco, e c'eri dentro anche tu, solo che chiaramente ci siamo incrociati via web. Dici New Project? Bravo, proprio lui, esatto. Okay, hai ragione, bravo, ti abbraccio. Anche a te, salutoni. Ciao, ciao. Ciao Claudio, ciao. Ci sono state battaglie e guerre nella storia, su questo mondo e in tutte le galassie. Sempre per orgoglio, desiderio di potere, voglia di comandare, avidità, lussuria, mancanza di rispetto, mediocre intelligenza, istinti bassi. Rinascere come spirito famelico negli inferi, o come un barbaro in una terra remota, o come un essere divino dalla lunga vita. crescere come un essere divino negli inferi o come uno spirito famelico in una terra remota o come un barbaro dalla lunga vita. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, sono le 22.50, rieccomi qui in onda, ma solo per qualche istante, perché poi adesso insomma lascio il microfono a chi di dovere, per chi è l'esperto in settore. Questa sera poi ne abbiamo tantissimi. Ricordo ancora Maurizio Calzavara, ovviamente il mio consueto compagno, ma abbiamo Vannuccio Zannella e poi c'è anche un amico che ci è venuto a trovare, poi magari lo sentiremo se avrà voglia di parlare, insomma un altro esperto di prog. Prima però appunto i soliti consueti dati nostri tecnici della radio, cioè il numero telefonico 049 875 6423, mentre gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. Le nostre frequenze 88.700 MHz e anche 94.600, ovviamente in modulazione di frequenza. Il nostro sito www.bluradioveneto.it e poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave. E adesso lascio la parola, credo, a Vannuccio prima di tutto, oppure subito. Sì, io solo introduco il personaggio che qui stiamo parlando, stiamo intervistando, anzi è già al telefono, si chiama Pierpaolo Bibbo. È un grande ritorno, vero Vannuccio? Cosa dici? Ma direi di sì, dopo 32 anni. Spieghiamo chi è questo personaggio. Pierpaolo è una figura un po' particolare. Stasera parleremo di prog, no? Da assolutamente, la seconda parte, quella più calda verso le 24. Beh, è più succosa in un certo genere, sì. Ci siamo goduti veramente la serata, sia sì. con Daniele che con Giorgio, hanno fatto delle cose magnifiche, sono ancora qua con noi, per cui li inviteremo anche a dire la loro in questo frangente. Pierpaolo Bibbo è un personaggio particolare perché innanzitutto è sardo, quindi già una terra molto molto molto molto particolare. È sardo di Cagliari, vive però in Costa Smeralda, dove ha uno studio di registrazione. Lui ha sempre lavorato nella musica, ha collaborato a parecchi lavori di gruppi degli anni 70, sempre ovviamente della Sardegna, quindi ha collaborato con i gruppi Gruppo 2001, era il nome, con i Salis, con tutta una serie di persone che forse non hanno raggiunto la grossa fama, perché incidevano per piccole etichette pressoché sconosciute e non sono mai andati, diciamo, all'onore così alto delle cronache, però facevano dei lavori molto molto dignitosi. E dopo 32 anni Pierpaolo a un certo punto ci manda un disco già finito dicendo: se vi piace, ho fatto questo. A noi è piaciuto molto e a sto punto penso, Pierpaolo, puoi dire tu la tua. Esatto. Ciao, innanzitutto un saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Sì, niente, hai già detto tutto quanto c'è da dire. Io questo lavoro me lo stavo trascinando da circa 3 anni, nel senso che l'ho iniziato, poi ho sospeso, poi ho ripreso, perché sai, dopo 32 anni dal primo lavoro, che era Diapason, hai paura magari di ripeterti, oppure di essere un po' vecchio, di rifare le vecchie cose, mentre poi alla fine dell'ultimo anno ho ricevuto un nuovo impulso e ho terminato il lavoro, ecco, tutto qua. Hai terminato il lavoro dopo 32 anni, ma in questi 32 anni cosa è successo, Pierpaolo? Hai cominciato, sicuramente hai fatto qualcosa, hai continuato, hai disfatto, cosa è successo musicalmente parlando? Sì, non sì, silenzio, un silenzio solo per modo di dire. No, musicalmente sì, ho lavorato, come hai detto tu prima, ho lavorato ai progetti di altri artisti e questo mi ha dato modo di imparare, di imparare nuove tecniche, nuove cose che poi pian piano mi sono servite da viatico per quest'ultimo lavoro. Anche ultimamente stavo lavorando, anzi ho terminato alcuni lavori nel mio studio di gruppi di Arzachena, ecco. Vai. Prego, Giorgio voleva anche lui dire qualcosa. Tabacco bruciato. Vai. Avvicinati, Giorgio. Posso prima di tutto darti del tuo, mi scuso se ma ci mancherebbe. Così maleducato. Secondo luogo, Arzachena è uno dei luoghi in cui io andrei a stare. La roccia che c'è sopra il paese è spettacoloso. Come si chiama? Lo chiamano l'orso? Mi sbaglio, scusami, ho detto. Forse Capodorso. Capodorso, esatto. Esatto, e poi vabbè, insomma. Che cosa resta? Che cosa dà la musica a quella terra che è meravigliosa? Allora, dunque, secondo me c'è una cosa che purtroppo caratterizza tutta la produzione musicale sarda. Il più delle volte, io cito gli esempi ovviamente, i musicisti che più sono famosi, quindi Tazenda, Piero Marras, il gruppo 2001 degli anni 70-80, caratterizza la produzione musicale normalmente sarda, che fosse rock o fosse un genere cantautorale, il più delle volte però è stata confinata all'ambito regionale. Perché? Perché essendo il più delle volte prodotta in lingua sarda, alla fine, fate eccezione forse appunto per i Tazenda e per Marras, che hanno una platea diciamo più molto vasta, alla fine però i prodotti musicali sardi sono rimasti confinati nell'ambito regionale, e questo forse è stato anche un limite delle produzioni musicali. Mentre le nuove generazioni, le nuove leve invece sto notando che hanno dato un taglio forse più internazionale ai loro progetti musicali. Cito per esempio un gruppo che sto producendo, i Cover Eggs Inside, che hanno fatto un album cantato quasi interamente in inglese, e questo ovviamente nel caso riuscissero a pubblicarlo potrebbe aprirgli le porte per un parterre più ampio rispetto a quello regionale. Daniele, cosa vuoi dire? Vuoi dire no, cosa? No, è che stavo pensando a Rafa. Che sono sempre parte di quella terra bellissima, anche la Sardegna è incredibile, ma c'è anche un altro chitarrista acustico di cui mi sfugge il nome, micidiale, è comunque sempre viva la Sardegna, che sia forse anche proprio il problema del continente, il traghetto, è la difficile, vuoi dire? Sicuramente sì, anche perché considera che stando su un'isola ogni volta che ci si deve spostare, sì, anche soltanto per un concerto oppure semplicemente per andare le spese a portare volano. Il prodotto diventa un problema. Difatti. Ma sai che però è anche vero, penso che tutto sommato è un po' come la musica in Italia, che è sempre stata bistrattata, cioè sempre non c'è cultura, non c'è qua, non c'è questo, manca quello, manca quell'altro, non ci sono strutture, c'è da fare le battaglie, però questo genere di situazione, questa difficoltà in qualche modo pare quasi che per paradosso riesca poi invece a produrre quelle cose che viceversa non verrebbero mai fuori. Beh, sotto sforzo si lavora meglio, no? Non so come dire, cioè bisogna soffrire per forza, tu vuoi dire che sia una così. Cosa del genere. La voglia di emergere a qualunque costo, o perlomeno di farsi sentire, poter dire ci sono anch'io. Ma no, quantomeno anche solamente proprio l'esigenza di riuscire a costruire quello che uno ha in mente di fare, ecco, anche solamente quello, senza bisogno magari del successo, già solamente come motivazione basterebbe. Che allora direi, appunto, andiamo magari, Pierpaolo, a sentire qualcosa da questo disco, giusto? Benissimo, sì, certo. Allora, noi pensavamo a L'osservatore indifferente, visto che c'è anche un video ed è una canzone molto bella. Sì, sono d'accordissimo, lo ascolterò anch'io molto volentieri. Bene, ci sentiamo subito dopo. Va benissimo, rimangi in linea. Dentro oceani e vortici, delle correnti spazio-tempo, espando al massimo i miei sensi e poi osservo il mondo indifferente. Questa calma del mio essere, sento la voce di ogni atomo, mi lascio trasportare in bilico, tra consapevolezza e senso di inutilità si insinua prepotente in me, ed una voce lontana come il tempo urla l'improvviso dentro me. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ripresentiamo il pezzo. Vabbè, era L'Osservatore Indifferente, l'album si intitola Genemesi di Pierpaolo Bibò. Allora Pierpaolo, che effetto ti fa sentirti per radio? È mi emoziona sempre. Volevo anche approfittarne anche per ringraziare nuovamente Silvia Ciudino, che è una bravissima cantante, che ha appunto cantato il brano insieme a me. Questo brano è stato proprio composto per voce maschile e voce femminile, ovviamente. È un artista, che Silvia Ciudino, che secondo me ha dato al pezzo un'intensità che speravo appunto di dare. Di nuovo un ringraziamento anche a lei. Per dire appunto le nuove leve della musica isolana, della musica sarda, possono veramente dare grosse soddisfazioni in prospettiva, ecco. E qui con noi c'era appunto Giorgio, con cui hai parlato un attimo prima. Voleva farti una domanda sul testo, in questo caso. Guarda, sì. I testi li scrivo, insomma, no? La parte letteraria secondo me è fondamentale in una canzone, se non altro perché io scrivo i testi, eccetera. Sono stato molto, molto attento. Prima di tutto vi posso dire che il testo mi ha commosso, e questa è una cosa che raramente mi capita, insomma. E poi questo testo dà la dimensione di uno spazio immenso con cui chi racconta ha a che fare, e io penso sempre ai vostri spazi, penso sempre al vostro vento, penso sempre, non so se è una suggestione mia o se c'è qualche cosa in quella terra che ti porta anche a cantare verso l'assoluto, insomma. Beh sì, diciamo che questo brano, L'Osservatore Indifferente, diciamo che il tema ricorrente di tutto l'album è l'uomo che si interroga sull'essenza di Dio, per intenderci. L'Osservatore Indifferente, io mi sono immedesimato per un attimo in Dio, in questo Dio che però dopo aver creato l'universo, il mondo, osserva indifferente ciò che succede e tutte le peripezie degli uomini, ecco. Per cui sì, in un certo senso poteva anche intitolarsi La solitudine di Dio in quel contesto lì, e sicuramente sì, l'ispirazione mi è venuta proprio appunto mentre mi trovavo un giorno in una spiaggia deserta a guardare il mare, a guardare l'infinito, diciamo così. Non c'è dubbio per Paolo che ovviamente si sente tutto questo nella ariosità del brano, e dopo nella sintesi che viene fatta nel cantato, insomma, che comunque è sempre sommesso, è un cantato sommesso. Però secondo me quel cantato è il valore aggiunto del brano, come quella musica così circolare, così è il valore aggiunto, esatto, del parlato e del cantato. Ma sai Giorgio, noi abbiamo cominciato la trasmissione parlando di questo, no? Cioè la sensibilità che viene inserita quando costruisci una canzone. Quindi, come giustamente diceva Daniele prima, se il brano c'è, se la canzone c'è, tu riesci in qualche maniera a costruire. Era un po' quello che si diceva spesso anche con Maurizio, quando veniamo qua nelle trasmissioni parlando magari di nuove leve o di diciamo di artisti già affermati o comunque che hanno una storia alle spalle. E noti una grossa differenza, nel senso che sicuramente i giovani hanno talento, hanno l'irruenza anche del talento, se vuoi. L'artista vero invece senti che è un'altra maniera di farti ascoltare. Guarda, le sue come cose. Come dice Daniele, è la vita che ti passa addosso. La vita non ti passa addosso per niente. Non è solo questo, è anche la diversa visione che hai della musica che stai facendo, della tua arte. Se Daniele costruisce in qualche maniera, e come si sente, voi avete costruito con due chitarre dei brani eccezionali, d'accordo? Spesso e volentieri ti trovi magari con della gente che ha avuto 24 piste digitali a disposizione, strumenti, di tutto, certo, e non riesce a sentire assolutamente niente. Hanno suonato tanto, non ti hanno detto niente. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che fa trasmettere nel il bisogno, l'essenza, di fare, di creare quello che il pensiero, la tua mente ti detta. Anche prima con Paolo è scappato forse un termine, successo. Di certo un brano come quello che abbiamo appena ascoltato, anche adesso, di certo non è nato con l'esigenza di dover fare successo, è nato per l'esigenza di esprimere, di trasmettere un qualcosa che è quello che conta. Tu sei d'accordo con questo, Pierpaolo? Sì, totalmente. Secondo me uno dovrebbe scrivere musica e tirar fuori quello che ha dentro, senza pensare assolutamente a nient'altro se non tirare fuori i propri sentimenti. Che è un buon motivo ed è forse l'unica strada poi per riuscire a fare magari pure che è successo, ma quello arriva da sé, se deve arrivare arriva poi da solo con le sue gambe. Sicuramente è più facile, come si può dire, convincere un ascoltatore con una sincerità di fondo che con un artificio. Certo, la sincerità in fin dei conti, al di là della cultura che può avere il pubblico che ti ascolta, ma siamo troppo abituati attraverso mass media, cioè sottovalutiamo il pubblico, ma il pubblico non è così stupido, cioè coglie subito una certa genuinità, un certo modo di fare e di essere, e quindi alla lunga bisogna riuscire a tenere duro, ecco. E questo forse può essere un buon consiglio anche per le nuove leve, per i nuovi giovani che forse più delle volte hanno troppa fregola oppure anche solamente l'esigenza di dover svangare subito, proprio anche per, sai, mantenersi magari gli strumenti oppure anche solamente la sala prove, che tante volte uno è fuori di molto a volte. Quindi il pubblico, secondo me, sta dove lo metti. Cerco di spiegarmi. Recentemente mi è capitato di andare a qualche concerto, qualcosina ho visto, no? Vabbè. Qualcosina. Ma non tantissimo, perché purtroppo va bene. Una cosa giusta. Niente. Sono stato a un concerto di Zucchero. Adesso l'abbiamo citato. Vi giuro. Allora, la gente. Zucchero fa quello che la gente si aspetta di sentire da lui, dal vivo. Mm-hmm. Punto e basta. Non rischia più di tanto. Se lo metti in una situazione in cui mettilo magari in un club, mettilo con un, magari fa qualche cosa di diverso. Cioè, voglio dire, il pubblico si aspetta. Devi mettere il pubblico nella situazione di non aspettarsi qualche cosa a tutti i costi. E allora il pubblico è come qualsiasi persona, si lascia andare all'emozione. Se l'emozione è guidata, ho visto gli Eagles, vabbè, 3 ore e mezza di concerto, non hanno steccato una volta, impossibile che 4 voci non stecchino mai una volta. Eppure? Dico, non se ne accorge. Bravi, perfetto, però alla fine io sono abbastanza convinto di aver sentito qualche cosa che in parte era preregistrato, ma non interessava a nessuno. Mm-hmm. Ah, ho capito. Allora, quello che voglio dire è un pubblico messo in un'altra situazione dove vede. Provate a vedere uno che suona jazz. Sta lì, suda. Stai a 3 centimetri, uno che suda, uno che sbaglia. Ma te vivi quell'emozione. Se il pubblico sa in una situazione plastificata, è plastificato anche lui. E dobbiamo, esatto. Secondo me, dobbiamo lavorare un po' tutti, ognuno per il suo, per rompere questa barriera, questo iato. Il pubblico torna ad essere quello che è, cioè una persona, questo un'altra. Muro di plexi. Scusate, no, va benissimo. Pierpaolo, allora noi ti salutiamo con un altro dei tuoi brani. Io ti ringrazio per avermi chiamato. Ci mancherebbe. Approfitto per salutarvi con un abbraccio a tutti quanti. E ovviamente gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Grazie. Allora, noi salutiamo con L'urlo del pesce rosso. Ok, è uno dei pezzi a cui tengo di più. Ah, bene. Ciao. Arrivederci, ciao. Ciao. Fra l'agonia e il silenzio, la frenesia crescente e la rassegnazione dal vetro trasparente di questa mia prigione, dal vetro trasparente di questa mia prigione. Ci muoviamo in questo sceno acquario ed annotiamo i giorni sul nostro calendario, convinti che sia vivere questo nuotare in cerchio tra i miseri confini del nostro piccolo universo, tra i miseri confini del nostro piccolo universo. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ok, ci siamo. Ci siamo? Ci siamo. 23:17, ci siamo, ci siamo. Lino Vairetti? Ciao ragazzi. Eccolo qua. Sono qua. Ciao Lino. Tutto bene intanto? Tutto bene, yes. Perfetto, allora... C'è qualcuno che voleva iniziare questa conversazione con te in una maniera un po' particolare, un po' teatrale come sono gli Osanna. Mm-hmm. E adesso sentirai, un attimo solo. Stai sì. Attento, Lino. I concerti erano tantissimi, c'era un forte senso collettivo, il desiderio dei giovani di stare insieme, di andare in giro con l'autostop, con i sacchi a pelo, un fenomeno dilagante, un po' sul modello dei Figli dei Fiori. C'erano concerti e festival ovunque in Italia, una nota negativa, l'unica, erano tutti maschi. Te la ricordi sta frase? Come non me la ricordo, fa parte delle mie cose scritte, certo. Esatto. È vero, c'erano tutti maschi. Erano tutti maschi. Raduni. È un'intervista a un libro di Francesco Mirenzi, Rock Progressivo Italiano, parte prima. Però insomma, gli Osanna, sì, maschi o meno, sono sempre rimasti e hanno continuato, devo dire. Anzi, nel corso del tempo si sono anche rimpolpati, giusto? Sì, noi ci siamo anche rimpolpati quelle poche femmine che c'erano. Scherzando, chiaramente. Rimpolpati in che senso? No, nel senso che eravate partiti in 4-5, adesso siete in 8 sul palco, o sbaglio? Sì, siamo in 8 quando c'è Vivi Jackson e Gianni Leone. In realtà noi siamo in 6, la formazione base è a 6, quindi da 5 si è aggiunto un solo elemento in più. Però poi c'è David Jackson, che è quasi sempre un nostro ospite, e spesso e volentieri c'è Gianni Leone, quindi diventiamo 8. E lei, io posso testimoniare che è uno spettacolo splendido, un vostro concerto, ci siamo visti qualche tempo fa appunto per un concerto a Verona che avete fatto da poco, però siamo qui per parlare invece di un altro concerto che in questo caso è stato registrato, ed è stato registrato un po' più lontano di Verona. Tu parli di quello a Tokyo? Esatto. In Giappone? Parlo proprio di quello, perché insomma siamo qua a sentire, sì, gli Osanna di Rosso Rock stasera. Sì, sì, il live fatto a Kawasaki, a questo club città di Kawasaki, che in Giappone è diventato il tempio della musica rock internazionale. Oddio, là suonano anche altre cose, perché poi in realtà è un grande auditorium che utilizzano per concerti, balletti, è una struttura veramente straordinaria, da fare invidia, perché c'è di tutto, tecnicamente sono perfetti, e noi lì abbiamo trovato tutto quello che poteva servirci e molto molto molto di più, al di là del personale che è meraviglioso, tecnici straordinari e un'accoglienza, una precisione da giapponesi, per cui siamo riusciti a fare un live quasi perfetto, tanto da poter farne poi un disco. Pensando che poi tutto questo è stato registrato in stereofonia, non in multitracce, per cui quello che c'è sul disco è quello che realmente abbiamo suonato, senza missaggi ulteriori, tranne un mastering finale. Lino, perché i giapponesi amano fortissimamente il prog italiano? Io credo che i giapponesi amino tutto quello che è una cultura, sì, musicale di grande livello, perché loro amano molto anche la musica classica italiana, europea, amano anche la canzone napoletana, quella vera, quella classica, e amano il prog, perché il prog per loro è un genere cult, un genere paragonabile molto alla musica classica e a tutto ciò che riguarda la grande musica di qualità. Ecco perché loro attingono principalmente dal prog dei primi anni 70, per loro è quello il momento magico, tutti gli album registrati successivamente a quella prima metà per loro sono importanti, ma non hanno lo stesso interesse, ecco. E infatti lo stava annuendo anche Daniele Dei Giambo, perché giustamente anche lui fa parte di questa schiera e sa bene insomma il Giappone come apprezzi questo tipo di lavoro. Mi viene una battuta di Bein, ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Fra poco ci sarà una sorpresa per voi, perché aiuto, nel DVD che sta per uscire, sta per uscire un DVD che si chiamerà Made in Naples, registrato il 24 ottobre del 2012 a Napoli con l'orchestra, una banda, Gian Piero Ingrassia, Tito Schipa, Gianni Leone, David Jackson, un sacco di ospiti, però li dico tutti, Sofia Baccini l'ho detto, Gianni Leone, c'era anche Elio Eco, Maurizio Capone dei Bung The Bang e la grande voce di Antonella Morea, che è una delle cantanti desimoniane. Abbiamo fatto un grande concertone che uscirà in DVD, Però ci sarà poi un DVD storico con tutte le cose degli anni 70, tutti i passaggi televisivi, che ne sono veramente tanti, li abbiamo recuperati, e abbiamo trovato anche delle piccole chicche. E c'è un omaggio al Bean di un amatore che mi ha regalato 3 minuti 3 di, di filmato in Super 8 muto, però io poi ho anche delle registrazioni che metto dove i Jumbo ci sono. Ma dai, vedi. Ecco. cioè, è una chicca, è una nulla di che, però è secondo me è molto bello, perché c'ha il gusto amatoriale, però sembra Woodstock, quindi è molto carino. Sì, sì, sì, sì. Allora Lino, resti un attimo al telefono con noi. Noi intanto facciamo sentire proprio il brano che dà il titolo a tutto il nuovo disco, che è appunto Rosso Rock. Bene, ok. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Bene Lino, allora bellissimo brano, inutile dirlo. E allora, sì, visto che tu hai punzecchiato in qualche modo il buon Daniele di Giambo, in qualche modo lui ti dà la pariglia adesso, ok? Attento. Voglio sapere allora. Attento. Allora, io non vorrei dire, ma riguardo alle ragazze che non c'erano mai, che ce n'erano troppo poche, però mi risulta che in un certo localino chiamasi Carta Vetrata... Sì. A buon intento poche parole, no, di bollate. E bravo, lì la gnocca girava. Ma non solo lì, no, io dico in assoluto nei raduni notturni, sai, quelli sì, da campeggio, quelli là, nei locali, sì. No, molte gnocche giravano, diciamo la verità, sì, sì. E sì, noi a Napoli facciamo gli gnocchi col ragù, e in giro prendevamo le gnocche, che erano le mogli degli gnocchi. Ascolta, anche prima si parlava un po' di quel periodo, e in Carta Vetrata sono passati praticamente tutti, perché, non so se lo sai, ma era praticamente tutto... forse di tutta Italia era forse stato il primo ma pure perché Enrico Rovelli era straordinario, era lui, esatto, che era un grande bravo l'hai detto proprio giusta. Ascolta, io ho un ricordo di un gruppo che tu conoscerai benissimo, si chiamavano Moby Dick. Yes. Che suonavano praticamente meglio, vedi titolo brano, suonavano meglio delle Zeppelin in persona, perché erano una cosa incredibile. Sì, sì. Ma che fine hanno fatto? Ma guarda, loro, Enzo Petrone, che poi il bassista, che stava anche suonando con me in questo periodo, stava riprendendo, noi stavamo rifacendo un gruppo che si chiama I Volti di Pietra, dove che è il gruppo prima ancora dei Moby Dick, degli Osanna e di altre storie. Stavo facendo una cosa insieme, però poi non è andata, io volevo farne pure un disco, però insomma ci sono state difficoltà organizzative, per cui vabbè. E loro, sì, Sandro Coppola, che è il cantante, Enzo Petrone, sono a Napoli, Adriano Assanti invece, il batterista Moby Dick, vive in Svizzera, mentre il chitarrista Tony Di Mauro sta addirittura a Stoccolma, quindi capito, la situazione si è un po' persa per le strade. Sì. Tra l'altro sono stato io l'aggancio per fargli uscire il disco in LP che la Da Karma ha pubblicato anni fa, perché loro l'avevano proprio messo nel cassetto. In realtà io poi, parlando con Giorgio della Da Karma, mi venne in mente che c'era questo nastro di questa registrazione, fra l'altro registrata a Londra, e così chiamai i ragazzi, loro si sono d'accordo e hanno fatto uscire questo LP dei Moby Dick. Fortissimi, ho sempre un'immagine quando da buoni milanesi, ma quando arrivava l'aria napoletana, guarda, era sì, all'altro mondo, certo, se no era la locanda del lupo, difatti. Sì, loro stavano all'altro locale, aspetta, come era la quinta dimensione. Ecco, sì, è vero, c'è anche erano proprio stabili nella quinta dimensione. Stavano quasi sempre lì. Sì, è vero, a Rimini nel periodo estivo c'erano, sì, è come mi capitò un anno Alberto Radius e niente proprio di meno che oh Madonna. Una sera ci fecero uno scherzo pure, perché noi dovevamo suonare come Osanna alla quinta dimensione, però mentre loro erano stabili noi arrivavamo un po' come ospiti d'onore, no? E perché ormai era uscito il disco, le cose, avevamo un po' di fama, però avevamo avuto a volo una cosa televisiva il giorno proprio del nostro debutto alla quinta dimensione, per cui mandammo un telegramma e quindi andammo il giorno dopo. Il giorno che la gente si aspettava, loro si fecero uno scherzo, si pittarono e fecero finire di essere Osanna. anche questo funzionava, no Lino? Lì, fortissimi. Allora, c'è anche Giorgio che vuole dire qualcosa. Fortissimo. Sì, se posso, innanzitutto complimenti, quello che ho ascoltato era veramente di un'intensità incredibile. Mi è venuta in mente una cosa ascoltando, però, cioè la teatralità che avete portato nel rock, nella musica popolare, insomma, coniugata col rock, secondo me l'avete mantenuto in un brano come quello che abbiamo appena sentito. Cioè che cosa che cosa vi ha dato il, voglio dire, quel modo di rappresentare il teatro? Che cosa ha dato ancora la vostra musica? Ma sai, io e Massimo Guarino, il batterista di Osanna, all'inizio abbiamo fatto l'Accademia di Belle Arti e avevamo in quegli anni, fine anni 60, inizio anni 70, avevamo un contatto con tutte le avanguardie internazionali, compreso il Living Theater, compreso tutti quelli che erano, e quindi vivevamo, poi, oltre alla musica, anche una dimensione dal punto di vista visivo, per cui poiché anche Danilo Rustici, ma lo stesso Elio, anche se loro non facevano l'Accademia delle Arti, comunque erano sensibili a queste forme. Poi Elio veniva dagli Showman, dove sì, erano più showman, un po' certo. Pop, avevano un'immagine un po' più, cioè una musica più commerciale, però Elio era uno showman, nel vero senso della parola, aveva un grande carisma, un grande senso scenico, per cui anche se la sua scena era più di apparenza individuale che non collettiva, però poi passare di lì a teatralizzare la nostra musica fu un passaggio molto facile, perché tutti ci riconoscemmo in questo tipo. Io di... direi più che altro naturale, c'è cioè proprio napoletano fino in fondo. Secondo cioè proprio... comunque la teatralità nel brano che abbiamo appena ascoltato c'è e basta, cioè non puoi prescindere, io la vedo proprio come... Ma voi avete visto il video che sta su YouTube di questo brano? Perdonami, no, lo andrò a vedere. Ti posso chiedere una cosa? Scusami ancora. Sì. Allora, hai parlato del Giappone. Io all'epoca ero un ragazzino, cioè un bambino, quindi io vi ho visto a 14 anni, 15 anni, a Voghera avete fatto un concerto, vabbè per me era una giornata un po' particolare, non sto a raccontarla perché mi muovo dei brutti ricordi, però quello che ricordo è che in quel periodo io ascoltavo tantissimo anche un artista giapponese che era Stomu Yamashita, che era stato al Festival dei Due Mondi, ecco. Cioè, io trovo che è un filo che lega tutto ancora adesso e che vi legava. Voi che siete stati in Giappone, vi chiedo che fine ha fatto Stomu Yamashita? Domanda. C'è ancora? Se ne hanno notizie? Discograficamente no. Discograficamente no. Veramente non ti so dire. Non so chi. No, hanno solo ristampato la vecchia discografia. Qua sono un po' più esperto io. Hanno solo ristampato tutta la sua discografia, ma discograficamente. Discograficamente. Non ha più fatto niente. Comunque niente, io ricordo fortissimo, e devo dire una cosa, il mio paese, che era Voghera, insomma, così, in quegli anni è arrivato di tutto, e gli Osanna, e qualche mese dopo, nel cortile di quello che era l'ospedale psichiatrico, allora purtroppo c'erano ancora i manicomi, certo. Così, il direttore aveva aperto l'ospedale psichiatrico, insomma... Era la legge del momento. Esatto. Allora, Giorgio Gaber, e subito dopo la nuova compagnia di canto popolare. Vabbè, strepitosi lo stesso. E anche lì, voglio dire, De Simone mi ha deflagrato, era assolutamente incredibile. Insomma, Napoli era tutto il contrario di tutto. Io ricordo Sean Phillips. Esatto. Sean Phillips, meraviglioso. Da positano. Sean Phillips, meraviglioso. Soprattutto i suoi capelli lunghissimi. Era meraviglioso Sean Phillips. È morto da poco, sapete. Dimmi. È morto da poco, sì, purtroppo. Sì. Allora, io direi, Lino, per concludere degnamente questa bellissima telefonata, partirei da quello che invece è l'inizio e ascolterei quello che è l'inizio del disco proprio, Preludio, che era però da Milano Calibro 9. Sì, dal film Milano Calibro 9, scritto fra l'altro da Luis Bagalov, noi l'abbiamo solo eseguito. Scusate se poco. Allora, Lino, ti ringraziamo moltissimo dell'intervento e ci sentiamo quanto prima noi. Però guardatevi il video Rosso Rock, che fra l'altro sono io in un sito archeologico romano che si chiama Piscina Mirabilis di Pozzuoli, Bacoli, che conosco, è veramente bello. Conosco perché mio zio, che era, ha una storia incredibile, uno zio veneto di Cavarzare, che ha fatto carriera all'Intersidera Napoli, una cosa stranissima. E quindi io da ragazzo andavo lì e l'ho girata tutta. Quindi sei stato, questa è una cattedrale sotterranea praticamente. Assolutamente sì. E io ho girato questo film lì grazie a Lucio Logatto, che è il regista di questa cosa, e fra l'altro c'è Stefano Longobardi, che è autore della musica del brano, insieme a Peter Emil, perché parte il brano è preso da un brano di Peter Emil, esatto. E quindi questo connubio ha fatto uscire questo brano magico, è registrato in questa, e la sceneggiatura e regia è loro, Io ho fatto solo l'attore, no. Per la prima volta mi sono lasciato prendere per mano e mi hanno trasferito in questa avventura, mi è piaciuta molto, devo dire la verità. Benissimo, Lino, grazie. Senti, ancora. Date un saluto al mio amico Claudio Rocchi pure, che so che dovrebbe stare... È già stato. È appena transitato, ma te lo salutiamo lo stesso. Un grosso okay. abbraccio, Lino. Ok, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Uè, ci vediamo a Verona, io sto al Club Il Giardino il 13 aprile. Benissimo, buono okay. a sapersi. Grazie ciao, mille, Lino. Ciao, Giambo. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave. l'onda del rock. Le sorprese continuano, non abbiamo ancora finito, ma ancora un quarto d'ora, ma un quarto d'ora sfavillante, vero Vannucci? Ma direi proprio di sì, insomma, è stato siamo stati altissimamente costanti per tutta la serata. Queste tre ore quasi. E infatti adesso abbiamo al telefono Gianni Belleno. Buonasera. Ciao. Gianni. Ciao cari, buonasera a voi. Eccoci qua. Allora, buonasera Gianni. Non potevamo non concludere in bellezza con te. Ma per un motivo molto semplice, perché la puntata si è sviluppata quasi tutta nel parlare di queste, tra virgolette, vecchie glorie, sfavillanti vecchie glorie, ovviamente, che ritornano dopo 30-40 anni a fare dei lavori bellissimi. E il 5 febbraio, infatti, succede qualcosa di molto interessante, vero Gianni? Sì, esce il nostro Out Dog Death, che è il nostro nuovo disco che avevamo preparato questo mese, un mese fa. Siamo riusciti a finirlo, quindi lo presentiamo il 7 a Milano alla Mondadori, quindi abbiamo un grosso, poi organizzeremo un concerto per proporlo e farlo sentire live, come tutto quello che facciamo da in avanti lo dovremo fare tutto live, quindi non siamo un gruppo che non vogliamo usare basi, non vogliamo usare computer e niente. Quindi siamo ritornati a suonare come si faceva una volta. E questa mi sembra una bellissima cosa. A parte come si faceva una volta, come si dovrebbe sempre fare, no? In teoria. Con l'entrata del digitale ormai fanno tutto, registrano, mandano tutto in digitale, fine, fai i dischi a casa adesso. Che è un po' frustrante, direi, per chi per tanti anni ha dovuto sudare su una batteria, o no? Certo, infatti è una cosa un po' fredda, insomma, poi vai dal vivo, senti come se fossero i dischi, dici bravi, che dovrebbe, poi scopri che fanno finta di cantare o hanno l'aiuto di altre cose, delle macchine, e allora dici vabbè, siamo capaci tutti a fare così. E non solo. Allora, la serata si è sviluppata proprio parlando invece di quella che era la vera essenza musicale, quindi la capacità, poi il talento di suonare. E tu parlaci anche, se vuoi, Gianni, di degli Ut Uno Tempore. Certo. Che progetto è? È un progetto che è nato dalla frustrazione di suonare con le basi, quindi... ci siamo di nuovo messi insieme io e Maurizio Salvi, che abbiamo fatto di Ut, che è il titolo del primo LP che abbiamo fatto, diciamo, sulla musica un po' prog, ecco. Che abbiamo fatto nel 72, ne abbiamo fatti tre, dal 72 al 75 abbiamo fatto Ut, abbiamo fatto Search for a Land e Punto Interrogativo, Canti di Innocenza, Canti di Esperienza. Che comunque restano sempre delle tappe fondamentali, ovviamente, per la musica italiana. Beh, questo è. Siamo un po' andati oltre quello che era la musica di allora, con la capacità degli strumentisti bravi, insomma. Suoniamo anche in modo un po' diverso di allora. C'è più scuola, c'è più tecnica, c'è più gusto, c'è l'esperienza di essere maturati e capire certe armonie, quindi abbiamo fatto una ricerca molto interessante che io spero che piaccia. E noi ovviamente te lo auguriamo di cuore. Infatti c'era Daniele sempre, diciamo che immagino vi siate incrociati prima o poi nelle vostre carriere, no? Che giustamente gesticolava mentre ti sentiva parlare innanzitutto di musica vera suonata, e lui questa sera l'ha fatto qui nei nostri studi, per cui voglio dire l'abbiamo toccato con mano, bellissimo, con la chitarra ma acustica, poi credo che sia la cosa più bella, perché certo. Anche l'errore è bello live, voglio dire, è umano, ma non uno solo. Suona è come fare il salto mortale senza la rete sotto, insomma, voglio dire, se quello devi fare e hai studiato per far quello, devi essere in grado di farlo. Perché l'errore va bene, perdonato l'errore, no? È più bello ancora è quello che sottolineavi un attimo fa. gallina vecchia fa buon brodo, cioè uno voglio dire non è che ti ripropone tali e quali pari come suonava 30 anni prima, magari dopo 30 anni hai imparato a fare qualcosa di meglio, magari vi ricordo che vi ricordo che i Rolling Stones ne hanno più di 70, ragazzi, Charles Watts, sì. anche gli altri. E quindi gallina vecchissima fa buon brodo stupendo. Allora Gianni, siccome non vogliamo rivelare niente nel nuovo disco, vi lasciamo la sorpresa. Il 5 esce il disco, metti che esce il 5, che arrivi in tutta Italia, ci vorrà un po' di giorni, no? Il 7 lo presentiamo a Milano. Ecco, quindi, però ci hai giustamente mandato almeno un teaser per sentire un attimino di cosa si tratterà, giusto? Va bene, io allora, lo mando anche. Quello che avete è soltanto, sono dei piccoli secondi, 30-40 secondi di ogni pezzettino. Esatto, intanto ascoltiamoci questi tanto per farci un'idea. E poi mi dici su qualche pezzo, mi puoi interrompere e dire che cosa vuoi, cosa ne penso, com'è nato. Insomma. E ne parliamo subito dopo che l'abbiamo sentito, cosa ne dici? Va bene. Perfetto. Eccoci qua, abbiamo sentito allora Gianni, abbiamo sentito le diverse facce dell'album che uscirà. Sì, infatti ci siamo rimasti malino perché volevamo sentire qualcosa di più, appunto, insomma. Però visto che è un'anteprima, adesso. Anche io sono rimasto male perché per esempio nell'introduzione di chitarra è collegato il pezzo che arriva con la tastiera, con l'organo subito dopo, no? Solo che quel pezzo lì che tu senti che parte veloce, poi diventa un lento che entra, cioè dura 7 minuti, però. Quindi c'è tutto un lavoro di voci, di cose. Sì, la magma delle voci rimane immutato nel tempo. Quello è come fai? Certo, è un marchio di fabbrica. E chi ha cantato? Chi è il cantante? Siamo io che canto dei brani insieme a Alessandro Del Vecchio. Poi i cori li facciamo un po' tutti, insomma, ci mettiamo lì e facciamo tutti i cori. Che erano sempre stati un po' il marchio di fabbrica New Trots. Ma per noi sì, io per quando scrivo come ho scritto quei Trots, quindi quella è la base, quindi non lo so. Tanti dicono che c'è misto di rock, di prog e di altro sito perché ci sono anche i cori, ma quello è la musica, è quella. Allora, mi permetto io di chiedere, tu sei soddisfatto di questo lavoro che hai fatto? Io molto. E allora è bellissimo, no? Questo sarei esagerato a dire solo che è bello. Questo è, per me sì, perché ci ho messo molta, molta passione per farlo, insomma. Io e Maurizio ci abbiamo perso un po' di tempo, abbiamo pensato bene le armonie, cioè, è stato fatto i testi, cioè c'è direi anche dei bei testi. Poi, se hai notato, c'è un pezzo cantato in inglese alla sì, fine. Esatto. E quello è bellissimo perché è Fergie Frederiksen di Toto che ci ha cantato il pezzo e credo che forse lo metterà anche lui nel suo disco perché è impazzito, lui ha sentito tutto il disco ed era in studio mentre noi registravamo, si è venuto per prendere fare il suo lavoro che dovrà fare qui a Milano ed è impazzito, ha detto io ti copio tutto il disco, ha detto, ma fatemi cantare, guarda, e abbiamo fatto cantare questo pezzo e lui lo farà mettere nel suo disco che va in tutto il mondo, quindi è una bella sensazione, assolutamente. È impazzito lui. Questo conferma una volta di più ancora quello che praticamente è stato il tema conduttore della serata, cioè chi è in grado di scrivere delle belle canzoni. Sai cosa c'è oggi? Si è perso l'autore vero. Esatto. Cioè come La carezza della sera, tanti dicono è una canzoncina, provate a scriverla una canzone così, provate a scriverla, non è facile. Io ne vorrei scrivere ogni mese una canzone così. Sì, sì, no, assolutamente. Una volta solo. È un disco di Gianni di collaborazioni totali, cosa dici? Di collaborazioni, grandi collaborazioni. Certo. Poi questi elementi qua, c'è cioè, Claudio Cinquegrana alla chitarra, che è un chitarrista eccezionale, secondo me. Il basso l'ha suonato la fidanzata di Alessandro Del Vecchio, che è Anna Portalupi, che è bravissima, veramente un tocco eccezionale. Spero di poterla portare dal vivo, ma è molto impegnata, ha fatto un sacco di lavori, quindi vedremo di trovare un altro bassista, adesso non lo so. E poi c'è Maurizio Salvi, che secondo me è un genio della musica, non so se voi lo ricordate, ai tempi di Concerto Grosso numero uno, sì. Era quello con gli occhiali, i capelli ricci, Maurizio. Ah, adesso ho capito, sì. È bravissimo, è una cosa, è diventato poi direttore d'orchestra, quindi a Paganini a Genova, quindi bravissimo. E devo dire che è un bel disco. Bene, sono molto contento. Saremo ancora più contenti poi di ascoltarlo nella sua interezza. Certo. Ti faccio salutare anche te da Daniele Dei Giampo. Sì. Ciao. Si dice, si può dire in bocca al lupo o porta male? No, crepi il lupo. Che crepi il lupo? No, ma non è. O cacciatore. Noi sappiamo il cacciatore, se no il tema ecologico e quindi povero lupo tante volte. Si sa benissimo che le strade che si scelgono oggi come musica è sempre più difficile perché con i tempi che corriamo. Però noi siamo talmente appassionati e innamorati della musica che andiamo avanti lo stesso. È come respirare, se no mancherebbe l'aria, bisogna scrivere. Io credo che sarebbe proprio triste il mondo senza musica, ma tu voi pensate a non sentire mai musica dalla mattina alla sera, solo rumori. Esattamente. Giorgio vorrebbe dire qualcosina a te, Gianni, un secondo. Sì. Saluto uno dei miei idoli e sono contento di poter parlare con lui. Buonasera. Quello che in questo brevissimo ascolto, mi è sembrato che ci sia stata una cura particolare nella scelta dei suoni, o sbaglio? Ci sono dei suoni, è un disco molto curato sui suoni, sentirete poi perché è veramente incredibile. Cioè chi l'ha sentito è rimasto impressionato da quello, non sembra neanche un disco italiano. Ma insomma, dai, siamo bravini anche noi a fare le cose, però quando ma ci impegniamo, sì, giusto? Ma certamente. Bisogna solo avere la capacità e la pazienza di perderci un po' di tempo, tutto lì, ma poi cioè, accordare una batteria sembra facile, ma c'è chi lo fa bene, insomma, non per darmi importanza, ma io ci ho messo 3 minuti a fare la batteria in studio, c'è gente che ci mette 2 giorni, capito? D'altronde, insomma, l'esperienza ha anche un suo valore certo. Conta in una certa maniera, no Gianni? No, certo, ma per quello che dico, oggi si può fare musica anche con un'esperienza alle spalle di 50 anni di musica, insomma, ragazzi. Vabbè, tanto più. Sì, io ne faccio 64 il prossimo mese, quindi sei ancora giovane, dai, assolutamente. Sono un ragazzino, esatto, è importante quello. Proprio per questo poi vogliamo vederti sul palco, no? Ma sì, sì, io ci sono sempre sul palco, pimpante. Lui aveva proprio la fama di essere, voglio dire, il frontman dei New Trolls, perché in realtà faceva un incredibile spettacolo nel palco suonando, cioè, o mi sbaglio? No, sempre ma io sono sempre così, sono sempre un casinista, quando sono sul palco mi diverto. Un casinista non è una cosa, un grande performer da palco è un'altra cosa, però. È sempre casinista, cioè è divertimento, noi la musica la facciamo perché ci piace, ci divertiamo, veramente. Questa è la cosa importante. Poi se arriva il successo, arriva tutto, è tutto in più e va bene, però io... Quando sono andato in studio, ho fatto il disco, eravamo solo noi. Ci credevo, l'ho fatto convinto di fare un bel lavoro, tutto lì. Benissimo, allora. Gianni, cosa possiamo dire? Ovviamente, come ti diceva Daniele... Ci dobbiamo vedere appena. Vengo a rappresentarlo lì, da voi. Magari, ben volentieri. Sì, sì, dicono sì, il nostro Agostino che è in regia, che ti coordina, aspettiamo. Con lui, è il nostro curatore che ci sente a casa, sicuramente è un invito non è formale, è un invito e basta. Gianni, guarda... mi invitate e io arrivo, non non c'è problema. Gianni, guarda che è stata registrata la trasmissione, poi quindi... metteremo il podcast, quindi lo sente tutto il mondo, questa è tua promessa. Allora Gianni, ti ringraziamo moltissimo, noi ci sentiamo continuamente, per cui non abbiamo problemi. E viva Blu Radio Veneto. Vai. Grazie a te Gianni e grazie per essere stato con noi e per la presentazione ovviamente di questo splendido disco. Grazie, a presto e buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Grazie. Ciao. Allora, abbiamo finito. Tre ore bellissime, sono volate. Abbiamo finito con una ciliegina sulla torta, insomma. Sono le 23:58 e qualche secondo fa cosa ha detto Gianni, ecco. Esatto. Si è proposto a venire qua a presentare, dice, potete ritornare anche voi, anche Tabacco Bruciato e Daniele sicuramente. Grazie Marco. Dimmi. Perché no? Tempo permettendo, è solo questione di realizzare come si deve il lavoro che stiamo portando avanti da qualche mese. Possiamo dire, oltre a questo, cioè, qualcosa che bolle in pentola in questi ultimi flash finali, dai. Qualcosa che bolle in pentola, un titolo per tutti, ma anche perché io personalmente sto lavorando praticamente su due progetti paralleli. Poco prima che si infilasse Giorgio con Tabacco Bruciato, stavo registrando un mio ennesimo CD che riassume un po' in qualche modo, insomma, il titolo sarebbe 900. Ah, ok. Quindi voglio dire, già da lì si capisce la cosa. Però mi si è infilata questa, come la devo chiamare? dal nome Tabacco Bruciato, nella persona di Giorgio Cazzola, eccolo qua. E quindi adesso, parallelamente con i ragazzi, col mio gruppo, stiamo portando avanti tutte e due le cose, ma quasi sicuramente entro la fine dell'anno, dai, anche se tutto va bene per l'estate. Cioè, Giorgio, cosa dici? No, dobbiamo farcela. Tra l'altro, dimmi. Dolan piacerebbe, sì, piacerebbe. Darvi anche l'anticipazione della copertina, perché la copertina è la fotografia, dovrebbe essere la fotografia di una maschera di pelle che ha fatto Daniele. Ah, benissimo. Perché Daniele fa un po' di tutto oltre a suonare la chitarra. Ho sempre avuto l'esigenza di muovere le mani. Le copertine dei Jumbo le hai fatte te? In realtà no, abbiamo veramente, a essere sincero, abbiamo partecipato alle copertine, eravamo in due, ma non sono solo Aldo Gargano, il bassista. Ah, ho capito. Cioè, è sempre un'idea assieme, che, però. No, anche perché scava, vai a vedere bene. Cioè, praticamente noi da ragazzi, e si è disegnato molto, chi grafica, ma Aldo ha avuto anche un'infarinatura di qualche anno di Brera, e quindi o per la grafica, o per la pittura, o per un senso, un gusto artistico di, quindi Daniele, difatti, scusa, Daniele, guarda, scusa, no, ci sarebbe una bellissima, fammi dire la roba. Allora, abbiamo sentito Varietti e faceva Accademia d'Arte Drammatica, loro Brera, Gabriel Bowie avevano lavorato con Lindsay Kemp, cioè non c'è, in quello era un periodo in cui si poteva fare crossover, come certo, in cui si mischiavano le discipline artistiche, non c'era assolutamente problema. La magia di quel periodo è stato proprio quello, secondo me. Ah, ho capito. Va bene, ringraziamo allora di questa serata, di questa splendida serata all'insegna della musica, diciamo tra virgolette buona, seria, vero Vannuccio? Sì. Esattamente. Non so se sia seria, non so se sia buona, sicuramente ci siamo divertiti molto. È musica che insomma, l'abbiamo ascoltata per tanto tempo, immagino continueremo a farlo perché è comunque un tipo di musica che ci appassiona molto. Certo. Insomma, c'è chi la fa, c'è chi la produce, c'è chi la vende e sta vicino a te, e c'è chi l'ascolta. Insomma, qualcuno deve pur fare tutti questi mestieri messi insieme, ma semplicemente perché ovviamente vada poi a finire a chi effettivamente la apprezza. Insomma. Un grazie quindi a te, Vannuccio, un grazie anche a Nino che è stato con me in regia e mi ha dato una mano. Maurizio, un grazie a te, ma prima di ringraziare a te ringraziamo i nostri ospiti che sono venuti a trovarci questa sera, cioè Tabacco Bruciato. Grazie. Ti ho aperto il microfono se vuoi sì, parlare. Grazie. E Daniele Bianchini, grazie. Grande chitarrista dei Jumbo, un gruppo che non abbiamo noi prog, e non soltanto i prog, non hanno dimenticato assolutamente. Però fatemi una promessa. Dimmi. La prossima volta parliamo del futuro, quantomeno delle cose attuali, perché mi avete fatto sentire vecchio, sapete? Cioè, mi riportate dietro i 50 anni, mi fate sentire tutta l'età che mi porto addosso. Non vale. Ma l'impostazione era questa e ringraziamo per l'impostazione. È uno scherzo, grazie a voi. Buonanotte a tutti allora. Grazie anche a tutti. Ad Alberto Prisco che è stato l'ideatore. Assolutamente. Ci sentiamo giovedì con il sottoscritto, invece domani sera. Sì, abbiamo gli Idea che è un gruppo di Milano. Ok. Grazie, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao.